e torniamo in voce alle 10.39 dai microfoni di Radio Onda Rossa per parlare di Crack, fumetti dirompenti, la nona edizione, quella del 2013, il festival di arte disegnata e stampata del Forte Prenestino, che appunto da stasera fino a domenica sarà al Forte in via Federico Del Pino. Abbiamo al telefono con noi Valerio Sciatto di Crack. Pronto, ci sei? Eccomi qua, buongiorno, saluto a tutti e tutte. Buongiorno, e niente, quindi ti abbiamo chiamato per parlare con te di questo Crack, insomma. Siamo proprio allo start, proprio alla partenza. Un Crack particolare quest'anno, questa idea, insomma, diciamo, Crack ormai 9 anni, appunto, come ricordavi tu, che va avanti in questa sua organizzazione curiosa, insomma, perché come sai è un festival completamente autoconvocato, autoprodotto, senza sponsor, sostenitori, fondi pubblici, niente, ma nemmeno senza un comitato di giuria, diciamo, di decisioni, di direzione dell'artistica, no? Quindi gli artisti semplicemente si iscrivono e si autocandidano e noi li raccogliamo e ospitiamo senza alcun tipo di restrizione, indirizzo, eccetera. Quindi in realtà Crack ogni anno raccoglie quello che quell'anno rappresenta, quindi quello che in quell'anno i gruppi che quell'anno hanno scritto libri, hanno fatto stampe o hanno lavorato di più vengono e fanno, e quelli che però quell'anno stanno facendo altre cose si sospendono. Quindi in sostanza è veramente il succo di della produzione contemporanea di questo mondo a livello planetario, che si incontra ogni anno. A livello planetario quest'anno quanto mai vero, perché abbiamo ospiti da tutto il pianeta, persino per la prima volta dalla Cina, e dalla Cina viene un artista molto molto particolare che lavora sulla linea sottile che separa il silenzio dalla parola, e che è quindi una linea dell'immagine, una linea che disegna quello che non si può dire. Laddove in Cina possono esserci argomenti tabù, parole sensibili che non possono essere pronunciate, Tony Cheung disegna proprio questi argomenti, quindi può in tutto sommato dire le cose che non si possono dire senza che nessuno possa azzittirle. È una cosa molto, molto interessante, molto particolare. Sono molto felice, è la prima volta che esce dalla Cina e sono felice che cominci con Crack. Senti, Crack di quest'anno è Crack Orda, dopo Crack. Che ci vuoi spiegare quest'Orda? Sì, beh, appunto la programmazione di Crack è sempre stata in qualche modo, come dire, suggeriva la possibilità che ci fosse un tema. Questa cosa è cominciata sin dal primo anno, dove il tema era war, era la guerra, no? Era il 2004, era, insomma, molto sensibile quello che stava succedendo nel mondo, e ci sembrava che quello fosse la sensibilità. E ogni anno abbiamo cercato, dopo quello c'è stata un'edizione dedicata al tambo di Vinaville, la scoperta che Crack era un festival internazionale, poi un Crack dedicato a Black Panther e così via. Diciamo che sono divisi grosso modo in gruppi da tre, diciamo. Questo gruppo, l'ultimo gruppo, è quello che parte dal Crack con la rivoluzione 3D, cioè quando sommato Crack ha avuto un cambiamento, un giro di vite notevole sulla partecipazione, ma sulla capacità dei gruppi che venivano di intervenire proprio nella programmazione, nella formazione del festival. Quindi noi ci siamo trovati sempre di più con proposte e sempre di più a dover gestire, no? Diciamo, soltanto quello che il festival proponeva. L'anno dopo è stato Crackpocalypse, e dopo l'Apocalisse, che è stato un momento molto, molto strano, una specie di azzeramento, di partenza, questo qui è il vero anno zero, quindi l'Orda che è un'Orda d'oro, un'Orda di nord, un'Orda pacifica, ma ben intenzionata, insomma, non per questo non aggressiva, non so come dire. Il segno che porta quest'orda è un segno brutale, appunto, non per niente educato, non per niente disposto alla trattativa, ma un segno però che non porta le armi con cui i barbari hanno distrutto Roma, ma le armi della china, del pennello, della carta, della parola, dell'immagine disegnata, eccetera. quest'orda è un'orda appunto sempre più vitale, no? E quindi in qualche modo che presenta un'opposizione, ma anche un desiderio, insomma, invece di sfruttare la crisi in cui viviamo come una grande opportunità. Io credo che tutto il mercato, il mondo dell'autoproduzione, in qualche modo in un momento critico del capitale, in cui le strutture produttive sono entrate in un loop mortale, beh, tutto quest'altro mondo in realtà possa produrre più agevolmente, più facilmente e tutto sommato sconfiggere totalmente, perché attraversandola proprio da un altro punto di vista, tutto il meccanismo della crisi. Tutte queste produzioni che noi vedremo ospitate a Crack in realtà vivono benissimo, si autofinanziano, come Crack del resto, insomma, è un paese che si autofinanzia e non dovendo dipendere dai meccanismi, diciamo, di gestione del capitale, si può invece essere sempre al salvo, al sicuro da questo, no? E quindi credo che tutto quello che sia prodotto nel mondo della letteratura e fumetti, essendo legato direttamente a un processo di produzione materiale, no? Di oggetti che vengono stampati, pregati, eccetera, non può appunto non che essere collegato in diretta e continua proprio al metodo di produzione. Insomma, se un fumetto è prodotto industrialmente, racconterà delle storie, diciamo così, di genere, formali, industriali. Se un fumetto è prodotto in autoproduzione, do it yourself, insomma, chiamatelo come vi pare, ma col sistema dell'impegno personale, del lavoro di movimento, produrrà delle storie che appartengono a questo mondo, ed è questo quello che esponiamo poi a Crack, insomma, è questo quello che l'orda che ospitiamo ci racconterà. Senti, le sono già montate, già un largo parterre di ospiti internazionali è arrivato. Oggi pomeriggio alle 2 tutti i vari espositori italiani cominciano a montare le loro yurte, le loro pelli dipinte, e stasera si comincia. Senti, a proposito dell'allestimento, anche per chi non conoscesse ancora Crack, anche se sembra poco probabile che questa persona esista, l'allestimento ancora una volta nelle 100 celle del Forte, o certo, ci sono degli spazi anche invece nel resto del centro sociale? Certo, sì, beh, avremo le celle. Già dall'anno scorso abbiamo visto che è praticamente impossibile contenere tutta la, appunto, non volendo mettere nessuna chiusura all'iscrizione, noi considera che se qualcuno non si è iscritto e sta sentendo questa trasmissione ora e sa che ha da esporre qualcosa, può tranquillamente venire direttamente al Forte oggi pomeriggio e uno spazio gli verrà assegnato, o domani o quando crede, insomma, nel senso, Crack non chiude mai le sue porte per tradizione e per decisione, insomma. Il che vuol dire che però bisogna disporre sempre ogni anno di un pochettino di spazio in più. Quest'anno, oltre alle celle, avremo anche il collegamento, i tunnel di collegamento verso la piazza d'armi, e già so che alcuni gruppi stanno allestendo delle cose in serigrafia, di fronte alla serigrafia e in zone limitrofe, comunque nella zona della piazza d'armi, perché comunque piano piano, lentamente, sia per il fatto che gli artisti vivono Forte, sia per il fatto che comunque il Forte è veramente un villaggio accogliente e però anche multiforme, quindi in grado di offrire tanti spazi per l'espressione artistica, e gli artisti li sanno prendere sui muri e allestiranno anche negli spazi all'aperto, sicuramente. E proprio perché il Forte è uno spazio multiforme, insomma, i fumetti vengono accompagnati anche da una programmazione musicale che dura per tutti e quattro i giorni e che animerà, insomma, la piazza d'armi, ma anche altri spazi. Beh, del Forte. Sai, tutti i fumettisti, alla fine i fumettisti sono persone strane, no? Io dico sempre, sono fumettista anch'io, insomma, però diciamo, sono dei nerd, no? Vivono tante ore in giro a capire come funziona il mondo, poi si chiudono nella loro stanza e passano la maggior parte del tempo a disegnarlo. Quindi quando possono uscirne, in genere suonano. Quindi moltissimi gruppi in realtà sono proprio gruppi di fumettisti che sono dentro produzioni musicali indipendenti o cose del genere, e quindi molta della musica viene direttamente dall'ambito del fumetto. C'è poi la musica collegata al mondo del fumetto, stasera c'è Larry Bambang, che è un artista che fa parte del collettivo Mischia in Vodka, quindi espone nelle celle sotto e poi suona col cappello da cowboy il suo country, folk, trash, comedy, slapstick, non so che altro. Stasera avremo anche Tandurello, questa star del condurrap, della finta musica Bangladesh, indiana, che fa un po' il verso, insomma, no, a tutti questi hit popolari che giocano con l'immaginario Bollywood. E invece viene dal romanissimo Pigneto, quindi è un gruppo in realtà di sperimentazione di ben noti sperimentatori intelligentissimi, no? che popolano la scena musicale romana. E concluderà un trio inedito di DJ Balli, Scott Sinclair e Fredo, un internazionale, uno milanese, un francese e un inglese, che suonano insieme. Nel frattempo nei sotterranei la musica va avanti tutta la sera. Avremo un gruppo svedese, avremo Andrea Noce, la voce delle rose, che ha studiato una performance apposta per il crack, insomma. Avremo Space Lex, avremo insomma una serie di gruppi. Domani avremo una programmazione molto particolare con Otto von Schirach, che è una specie di mito per tutti quanti noi chiamiamo questo tipo di musica stravagante e che attraversa un po' i generi. Lui passa dalla cumbia al cartone animato alla techno hardcore con un sorriso stampato sotto i suoi baffetti da sparviero, tipici di ogni musicista che si rispetti. E abbiamo il giovane, diciamo, credo che sia una nostra scoperta, forse la prima volta che viene in Italia, Nick Tiff, che è un hacker del suono, è un ragazzo molto molto molto particolare, che produce strumenti musicali, costruisce gli strumenti musicali con cui suona per esempio la techno schioccando le dita con dei guanti interattivi che ha inventato, eccetera. Ha uno spettacolo di proiezione molto complicato che vedremo domani. C'è anche Invaderesca, suona la tuba elettronica, credo che non si sia mai visto uno strumento così tradizionale come la tuba, riconvertito invece sotto una forma pop e elettro. E poi chiuderà la serata World Beer. Nei sotterranei abbiamo una cosa particolarissima, una programmazione molto particolare domani sera, una sinfonia barbarica dei Tecnomoda, che è un gruppo che viene da un villaggio della Serbia, che si collega direttamente alle teorie di Ljubomir Micić, un sperimentatore dell'avanguardia serba negli anni 20. Lui scriveva libri in connessione con le cose, con l'Esprinu, con la lista di Le Corbusier, comunque con le riviste internazionali di arte contemporanea, e lui era un artista di estrema sinistra, vedeva il nero dell'Europa che avanzava, il nazismo, e un'Europa molto triste di fronte a sé, e lui invocava, insomma, come una rinascita barbara negli anni 20, da cui liberarsi da questo gioco nazista e capitalista che intravedeva. Avremo un inno alla luna dal gruppo Mun Ra. Voi sapete che tutte le divinità in origine erano divinità femminili, poi nelle varie trasformazioni, no? La prima trasformazione è stata quella di demonizzare, demolire le divinità femminili e sostituirle tutte le divinità maschili. Ecco, questo invece è un inno di un gruppo che invece ci racconterà quest'altro tipo. Ci sono altre cose, cioè sono gli Intellectual Babies di Don Mano, un gruppo di sperimentatori noise, e insomma è un'altra, e Mol 6i, un altro gruppo che ha una formazione estremamente politica queer, che farà un'altra esibizione domani. E sabato invece avremo una programmazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati a Crack. Avremo un circo, no, quello di Tony Clifton, che presenta uno spettacolo teatrale. Avremo Popper e Shazam, due massacratori del suono. Popper già ospite di Crack più volte, quest'anno si presenta con una cerca di fare le sue canzoncine pop suonandole sulle lamiere, su oggetti di rifiuto. E Shazam è un suonatore di farfisa deviante. ma tutta la musica si spegnerà all'una, non perché si andrà tutti a dormire, tutt'altro, un'orda di musicisti, circa 15 bande, vuol dire, se consideriamo una banda, più o meno potrebbero essere sulle 400 elementi, vuol dire che sono praticamente in ogni angolo del forte ci sarà un gruppo che suona dal vivo senza amplificazione per tutta la notte. Questo vuol dire che sarà una serata veramente barbara, no? In cui i vari generi musicali si mischieranno, le bande faranno proprio dei clash, dei combattimenti, si scacceranno da un posto all'altro e avranno la possibilità di governare territori e sonorità per tutta la notte. Credo un esperimento che ci divertirà tutti quanti, insomma. Poi domenica invece è una giornata dove sì, ancora altri gruppi si esibiranno nei sotterranei, ma è dedicata di più alle proiezioni. Avremo i cartoni animati psichedelici Jake Fried, avremo un interessante esperimento culturale che è l'abecedario Arebur, cioè un abecedario al contrario, quindi che parte dalla parte dei deboli, dalle parole dei deboli, dove sono state intervistate per dare voce a delle parole, le femen piuttosto che altri, un rapper francese di strada, MC. E poi ci sono, insomma, è un racconto che va seguito, insomma, che andrà, che sarà interessante. È finito questo, manderemo un film interessantissimo che è la storia di questa partigiana ormai 101enne che racconta a due fumettisti la sua vita, e i fumettisti cercano di riraccontarla attraverso le animazioni. Questa è la bimba col pugno chiuso. Questo più o meno, saltando tantissime cose, insomma, perché poi comunque Crack è pieno di performance e di cose che si sviluppano nelle celle, cioè, quindi ognuno sa che può, ha un margine di libertà sempre molto ampio, quindi non tutto quello che c'è nel programma ufficiale è tutto quello che c'è a Crack. Ci sono molte cose che vengono comunicate giorno per giorno, volantini clandestini che girano. Per esempio il sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 faremo un film di animazione, c'è Kingo Pongo, Stefano Argentero, che si mette lì e costruisce universi, che gira, che riprende, e alla fine della serata c'è un film che è animato su Crack, sviluppato in diretta. Questo sì. per dirne una, ma insomma veramente workshop di serigrafia, linografia, incisione, succede veramente di tutto, insomma è veramente un'orda creativa in pieno assetto di guerra. Sì, l'unica è viversela, insomma, con calma, questa, credo di sì, e perdendosi un po' dentro e non facendo solo una visita fuggevole, insomma, che forse non renderebbe merito. Chi lo sa lo viene per questo, certo. E ricordiamo anche che dentro Crack anche quest'anno c'è Scarceranda, che in un suo spazio appunto raccoglie disegni, strisce, fumetti sul carcere. Beh, noi abbiamo proprio voluto dedicare quest'anno di nomadi, libertari e combattenti contro i poteri istituiti, proprio a quei nomadi che invece per motivi di restrizione della loro libertà personale non potranno intervenire a Crack, insomma, perché abbiamo particolari legami. Voi sapete che, insomma, il nostro festival è stato sempre sostenuto, organizzato dalla radio, ma in special modo Fagiolino è sempre stato parte di tutta la nostra organizzazione, quindi siamo assolutamente ribaldamente proprio contrari a tutto quello che riguarda la sua carcerazione, e non possiamo che sostenere assolutamente il processo di libertà, invece, che speriamo si possa in qualche modo aprire per lui, ma soprattutto che si apra per chi decide di sorridere fronte alla prossima del potere. Noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no magari ci sentiamo nei prossimi giorni per qualche aggiornamento. Ci sentiamo volentierissimo nei prossimi giorni, facciamo quello che, cioè, ci trovate quando volete. Io spero di potervi raggiungere in radio con qualcuno degli artisti internazionali. Abbiamo delle persone molto molto particolari, degli intellettuali molto complessi. Questo Coco Riot, che partecipa al festival, sarebbe molto bello. Coco è un artista complesso che lavora sul fumetto, lavora sull'installazione, ma soprattutto lavora sul contro la dittatura del genere, contro il fatto che il genere debba governare il linguaggio, e quindi noi prima di tutto, prima di parlare di una persona, prima di parlare di una storia, dobbiamo sapere se è maschio o femmina. Ecco, Coco non è né questo né quello, è qualcosa di più profondo, è qualcosa che cerca, scavalcando, di affermare una libertà che è inarrivabile. Quindi mi piacerebbe moltissimo portare Coco in radio, mi piacerebbe portare qualcun altro degli ospiti, se ci riusciamo in questi giorni sarà. E la radio spera tanto che ci raggiungiate, insomma, qua a San Lorenzo. Noi vi raggiungeremo senza dubbio, insomma, al Forte Prenestino in questi giorni. Quindi niente, per ora ti ringraziamo. Un abbraccio grandissimo, un saluto a tutti e a tutte, grazie. Anche a te, ciao. Ciao. Per Gold, Super Gold.